giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Definite dalla Regione le linee guida sui bandi per il rinnovo delle concessioni balneari, pronte entro l'estate le procedure per le assegnazioni che potranno valere a partire da gennaio del prossimo anno. Via libera alla balneazione nei tratti di costa da Staranzano a Muggia dopo il responso delle ulteriori analisi dell'ARPA sulla qualità delle acque marine che presentano ora valori conformi alla balneazione. Nel pomeriggio saranno disponibili anche i risultati delle analisi supplettive di grado. Ancora disagi lamentati dai condomini di Viale 23 Marzo a Udine, dove aveva sede la struttura di accoglienza minori non accompagnati abusivamente occupata di notte. Intervento all'alba dei carabinieri che hanno sorpreso una coppia che aveva infranto un vetro dell'ingresso per entrare. A Villa Savornian di Le Stanze in corso la Convention Friulani nel Mondo, l'associazione più antica di rappresentanza dell'immigrazione regionale, che riunisce 140 Fogolars Furlans. La scelta dei Sequals è un omaggio a Carnera, simbolo dello sport friulano nel mondo, che è il tema di quest'anno. Al via Trieste Bioest, 2 giorni dedicata alla sostenibilità ambientale declinata sugli stili di vita naturali della quotidianità, in allestimento gli stand con prodotti naturali e biologici di circa 150 espositori. Tutto esaurito e tributo di applausi per la bacchetta di Riccardo Muti, che ha diretto ieri sera nella Basilica di Aquileia il concerto per la pace con l'orchestra giovanile Luigi Cherubini di Ravenna. Attese questa sera 20.000 persone allo stadio di Lignano per il concerto di Sfera Ebbasta, per italiano che quest'anno detiene il record del maggior numero di brani piazzati al primo posto della Top Singoli e il maggior numero di settimane in prima posizione. Le 12.32 minuti, buongiorno da Giorgio Bearz e Maria Spezia in studio a condurre questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di sabato 15 giugno. La Regione ha dunque definito le linee guida sui bandi per il rinnovo delle concessioni balneare, pronte entro l'estate, le procedure per le assegnazioni che potranno valere a partire da gennaio del prossimo anno. Ma c'era bisogno di alcuni chiarimenti per capire esattamente come funzionerà tutto il percorso. Per saperne di più è in studio con noi Alessandra Zigaina. Sì, buongiorno. All'indomani dell'emanazione di queste nuove linee guida, che sono ancora in fase di studio, si è creata una certa confusione. Il nodo più critico sembrava, fino a poco tempo fa, la previsione di uno spazio da destinare all'accesso gratuito all'interno delle concessioni. Facile a dirsi, dicono molti gestori di stabilimenti balneari, è difficile o addirittura in alcuni casi impossibile da mettere in pratica. Ne abbiamo sentiti alcuni e tra questi c'è Roberto Marina, capo della GIT, l'Agrado Impianti Turistici, che questa mattina ci ha detto di aver alzato il telefono e di aver chiamato l'assessore Callari ricevendo chiarimenti e rassicurazioni. Abbiamo chiamato anche noi l'assessore Callari, il quale ci ha confermato che questa questione ha sollevato confusione e che per questo la prossima settimana organizzerà una conferenza stampa per chiarire tutti gli aspetti. In sintesi, ci ha spiegato, saranno i comuni costieri nel predisporre le gare a dover pianificare l'arenile in modo da lasciare ai margini delle concessioni delle aree libere. Aree libere che per esempio a Grado ci sono già. A quel punto, se chi partecipa alla gara si offre di garantire la pulizia e il servizio di salvataggio nella zona libera e limitrofa alla sua concessione, acquista un maggiore punteggio ai fini appunto della gara. Riepilogando, poi i bandi di gara saranno presentati a breve e entro la fine dell'estate saranno raccolte le domande in modo che a fine anno si potranno assegnare le concessioni. Questo discorso vale per circa una trentina di concessioni in scadenza in tutto il Friuli Venezia Giulia. Ringraziamo Alessandra Zigaina per averci aggiornato in diretta e proseguiamo con le altre notizie del nostro giornale radio. L'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia ha effettuato in tutte le aree balneabili dove erano stati registrati superamenti dei valori limite un ulteriore campionamento di verifica. In particolare i campioni di acqua marina prelevati nel lido di Staranzano, a Monfalcone, nei punti di Marina Giulia e Marina Nova, nella diga nord a Trieste, negli stabilimenti balneari Muggesano e GMT, presentano ora valori conformi alla norma per la balneazione, che pertanto può riprendere regolarmente. Lo ha reso noto l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro. Nel pomeriggio saranno disponibili anche i risultati delle analisi supplettive del comune di Grado. È ripresa regolarmente già dalla tarda mattinata di oggi, quando l'ARPA ha diffuso i dati dei campioni di verifica, la balneazione al Lido di Staranzano, a Marina Iulia e Marina Nova a Monfalcone, alla Diga Nord di Trieste e a Muggia. Balneazione che era stata sospesa con ordinanze comunali nel pomeriggio di ieri, in seguito ai risultati dei previsti monitoraggi mensili effettuati dall'Agenzia per la Protezione Ambientale, che avevano evidenziato superamenti dei valori limite del batterio fecale Escherichia coli, oltre che nei comuni indicati anche in tre punti del Lido di Grado Pinetta, nella zona dei campeggi. I risultati delle analisi suppletive di questi ultimi punti saranno disponibili nel pomeriggio ed è probabile quindi che anche qui il divieto di balneazione sarà rimosso. Le contaminazioni dell'acqua, ha spiegato l'assessore regionale all'ambiente Scoccimarro, si devono molto probabilmente alle forti piogge dei giorni scorsi e per questo sono state di breve durata. Secondo i limiti di legge, ha aggiunto Scoccimarro, il ricampionamento dovrebbe avvenire entro 72 ore, ma le indicazioni che ho dato ad ARPA a inizio stagione sono di procedere entro 24 ore per favorire la fruizione dei servizi turistici e dei bagnanti. Per la sindaca di Monfalcone, Anna Maria Cisint, che ha citato informazioni fornite dai tecnici del comune, quello della contaminazione batterica è un problema che si verifica sempre in seguito alle cosiddette bombe d'acqua come quelle cadute nell'ultima settimana lungo il corso dell'Isonzo. Per limitarne gli effetti, ha aggiunto, occorrono maggiori controlli sul corretto funzionamento dei depuratori come quelli messi in campo a Monfalcone. Monfalcone, Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora uno sguardo sui dati del tempo, la nuvolosità è variabile sulla regione, queste le temperature registrate poco fa. A Trieste 22 gradi e mezzo, il mare è quasi calmo, con temperatura di 21 gradi e mezzo. A Pordenone 23 gradi, a Gorizia 22 gradi e 5 decimi, a Udine 21 gradi. A Tolmezzo 18 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 18 gradi, a Forni di Sopra 14, a Piancavallo e Sappada 12. Sul Monte Lussari 10 gradi, sullo Zoncolan 8 gradi e mezzo. Passando alla costa, Lignano 26 gradi, a Grado 22 gradi e 5 decimi e la temperatura del mare è di 21 gradi e mezzo. Le previsioni a cura dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per le prossime ore: sulla costa cielo poco nuvoloso, sulla pianura variabile, sulla zona montana nuvoloso. Sono previsti rovesci e temporali sparsi, più probabili sui monti ma possibili anche sulle altre zone, venti di brezza sostenuti. Nella giornata di domani sulla costa è previsto cielo in prevalenza sereno, su pianura poco nuvoloso, sulla zona montana in genere variabile con nuvolosità più consistente su Prealpi e Carnia, dove saranno possibili deboli piogge e qualche rovescio isolato, specie nel pomeriggio. Venti di brezza sostenuti nel pomeriggio. Oggi per il traffico è giornata da bollino giallo sull'autostrada A4 in entrambe le direttrici, con possibili code e rallentamenti in prossimità dei principali svincoli in direzione mare, in particolare in uscita la barriera dell'Isert al pomeriggio, in prossimità dello svincolo di Latisana fino al tardo pomeriggio. Attualmente la viabilità risulta in intensificazione. La cronaca ancora disagi lamentati dai condomini di Viale 23 Marzo Udine, dove aveva sede la struttura di accoglienza per minori non accompagnati che viene abusivamente occupata in questi ultimi tempi di notte. All'alba un giovane straniero e una ragazza, dopo aver infratto un vetro dell'ingresso per entrare, sono stati raggiunti e portati via dai carabinieri. Non c'è pace per i condomini di Viale 23 Marzo a Udine, dove aveva sede la struttura di accoglienza minori non accompagnati gestita dalla cooperativa Aedes. Da lungo tempo l'immobile di proprietà di Sereni Orizzonti e chiuse da ottobre 2023 viene abusivamente occupato di notte. Durante la notte sono anche successe violenti liti verbali. Più volte i residenti hanno allertato le forze dell'ordine che, giunti sul luogo, non trovando tracce di effrazioni e non potendo accedere all'interno, andavano via nei giorni scorsi. Grazie alle numerose segnalazioni da parte dei condomini e dell'amministratore dello stabile alla proprietà, personale di Sereno Orizzonte delle forze dell'ordine hanno effettuato un'ispezione e ieri la proprietà ha di nuovo cambiato serrature aggiungendo un nuovo congegno. Silvio Ciccuto, residente. Una volta sono entrati insieme alla proprietà per un'ispezione, hanno trovato una persona che dormiva, più alcuni zainetti, alcuni telefonini. La proprietà proprio ieri ha cambiato le serrature e messo un'ulteriore nuova serratura che infatti ha impedito di aprire le porte, ma questa mattina alle 6 una coppia, un giovane e una ragazza, non potendo aprire, non riuscendo, hanno spaccato il vetro e poi da lì sono entrati. Certo è che non è mai finita, per un motivo o per l'altro noi qui ogni giorno abbiamo novità. Immediato l'intervento dei carabinieri che hanno identificato i due giovani in attesa delle valutazioni da parte dell'autorità. Udine, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Nasce dalla convinzione dell'opportunità di favorire e sviluppare politiche efficaci di prevenzione e sostegno ai lavoratori e alle imprese sul fronte sicurezza l'accordo siglato dal presidente regionale di Confcommercio Gianluca Madriz e dagli esponenti sindacali di Filcams CGL, Fisascat CISL e UIL TUX. L'intesa, è detto in una nota congiunta, mira a consentire anche alle aziende del terziario di dare attuazione agli adempimenti loro demandati su consultazione e partecipazione dei lavoratori alla prevenzione e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Chiediamo al sindaco, al questore, al prefetto di Trieste, nonché al presidente della regione di vigilare affinché alle donne e agli uomini delle forze di polizia impegnati in questi eventi venga riservato un trattamento dignitoso e rispettoso. Così, in una nota, si esprime Michele Tarlao, responsabile del Forum Sicurezza e Coesione Sociale del PD triestino, in vista dell'imminente G7 istruzione, previsto per il 27, 28 e 29 giugno a Trieste, che vedrà impegnate le forze di polizia per i servizi di ordine pubblico connessi all'evento, al quale seguiranno la visita del Presidente della Repubblica e del Santo Padre. Non possiamo tollerare che si ripeta quanto accaduto a Brindisi, continua Tarlao, dove la nave destinata a ospitare oltre 2.000 agenti di polizia è stata sequestrata a causa delle pessime condizioni igienico-sanitarie, con sangue a terra, bagni intasati, tubi rotti e muffe. Questa situazione, denunciata dal personale e documentata dalle autorità, è inaccettabile e non deve assolutamente ripetersi a Trieste, ha concluso Tarlao. A Villa Savognan di Le Stanze, in corso la Convention Friulani nel Mondo, l'associazione più antica di rappresentanza dell'emigrazione regionale che riunisce 140 Fogolars. La scelta di Sequalze è un omaggio a Carnera, simbolo dello sport friulano nel mondo, che è il tema di quest'anno. Presenti anche due atlete paralimpiche, Katia Aere e Giada Rossi, che si stanno preparando in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Lo sport come veicolo dell'identità friulana nel mondo è il tema della 71esima convention dell'ente Friuli nel Mondo, nome tutelare e simbolo di riferimento è Primo Carnera, storico pugile di fama mondiale, e proprio in omaggio alla sua figura l'incontro si tiene a Sequals, città natale di Carnera, a Villa Savognana di Le Stanze. Filo conduttore è insomma il Friuli dei campioni, ieri e oggi, presenti quindi anche due atlete paralimpiche, Katia Aere e Giada Rossi, che si stanno preparando per Parigi 2024, ma c'è anche il presidente del CONI regionale Giorgio Brandolini e rappresentante di altre associazioni sportive. Gli incontri vertono proprio sul tema dello sport e sulla sua valorizzazione. Questa edizione segna anche la fine del mandato del presidente Loris Basso alla guida dell'ente Friuli del Mondo. Dopo di lui al suo posto il comune di Udine, che ha la maggioranza delle quote associative, avrebbe indicato Franco Jacob, secondo voci non smentite. Per Basso l'ente, che è la prima e la più antica associazione di emigrazione italiana, rappresentativo di oltre 140 fogolari, è portatore di un primato di storia che va valorizzato anche sul piano economico. Il suo mandato, segnato all'inizio dall'inattività forzata dovuta al Covid, ha visto poi la ripresa dei grandi eventi, culminati con la convention del 70esimo lo scorso anno a Udine e l'apertura di nuovi Fogolars, ma soprattutto, sottolinea, ha reso stabile il format delle visite dei giovani friulani dall'estero, invitati a conoscere la regione dei loro antenati e rinsaldare così in modo diretto il legame con le loro radici. Sequals, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Giornata di apertura a Trieste per BioEst, due giorni dedicata alla sostenibilità ambientale declinata sugli stili di vita naturali della quotidianità. In allestimento gli stand con prodotti naturali e biologici di circa 150 espositori, tutti accomunati dal fatto di essere piccole realtà provenienti da varie zone d'Italia, oltre che da Slovenia, Croazia e Austria. Passeggiate alla scoperta delle erbe spontanee, sessioni di ginnastica, laboratori con l'argilla o con i fiori di carta, un incontro sui cinque elementi della medicina cinese. È partita con un programma pieno di appuntamenti BioEst, la fiera di prodotti e stili di vita naturali che si tiene oggi e domani nel Parco di San Giovanni a Trieste. La manifestazione ha al centro da anni i temi della sostenibilità ambientale, degli stili di vita utili per un mondo più in armonia con la natura. 150 espositori sono arrivati da tutta Italia, da Slovenia, Austria e Croazia. Vendono spezie, oli essenziali, tessuti naturali, gioielli sostenibili. 44 associazioni propongono al pubblico, numeroso già dalla mattina, laboratori ed esperienze. Tra le novità di quest'anno, un fabbro che forgia il ferro per creare sculture e un maestro cioccolatiere che utilizza una ricetta molto antica. Tanti anche gli stand di piante alimentari, a mostrare che il biologico non è più una produzione di nicchia, ma una parte importante del mercato. Nella mattinata anche una visita agli apiari, una sessione di gong yoga, il corso di uncinetto e un corso per diventare operatore olistico. Un incontro promosso da Legambiente su come misurare l'inquinamento dell'aria dove viviamo. Attesa per domani una degustazione di miele, un laboratorio di tinture con le erbe e la danza creativa. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Parliamo ora di eventi musicali, spettacoli, due eventi di livello assoluto si sono tenuti ieri sera nel campo della musica classica in regione, ad Aquileia, in Basilica, il Concerto per la Pace nella Basilica, appunto di Aquileia, affidato alla bacchetta di Riccardo Muti con l'orchestra giovanile Luigi Cherubini di Ravenna, tutto esaurito sia all'interno della Basilica sia nelle piazze dove erano stati allestiti due maxi schermi proprio per consentire al maggior numero di possibile di persone di seguire l'evento. L'orchestra Cherubini è stata fondata dallo stesso Muti 20 anni fa ed è formata da musicisti tra i 18 e i 30 anni. Il programma è stato aperto dall'ouverture in stile italiano di Schubert e proseguito con una pagina sinfonica di Catalani intitolata Contemplazione e con il concerto in La maggiore di Mozart che ha visto impegnato per la parte solistica Daniel Ottenshamer, primo clarinetto dei Filarmonici di Vienna. A chiudere il concerto ancora Schubert con l'incompiuta sinfonia in si minore. E sempre ieri sera anche la prima dello spettacolo che chiude il cartellone del Teatro Verdi di Trieste. Si tratta di una doppia proposta aperta dall'unica opera scritta da Fiorenzo Carpi su libretto di Giorgio Strehler e chiusa dal Castello di Barbablù di Bartò. Da un lato l'interno mitteleuropeo semi nascosto da un velo dove una famiglia borghese vive fino a un certo punto il dramma della metamorfosi di un figlio trasformato in un orribile insetto. Dall'altro un'ampia sala di castello medievale a fare da sfondo agli orrori di una fiaba, Barba Blu, decisamente sconsigliata ai minori. Sono le immagini chiave del doppio spettacolo che ha chiuso la stagione del Teatro Verdi di Trieste. La prima messa in scena è in se stessa un evento. Il libretto lo scrisse Giorgio Strehler, ovviamente prendendo spunto da Kafka, su commissione di Victor de Sabata. La musica, in vista di una messa in scena al Teatro alla Scala che non avvenne mai, fu affidata a Fiorenzo Carpi, autore delle partiture che accompagnarono centinaia di spettacoli di Strehler, ma anche innumerevoli trasmissioni televisive, una per tutte il Pinocchio di Comencini. Lasciata incompiuta, la partitura è stata oggi completata da Alessandro Solbiati e arriva a Trieste dopo la prima assoluta 2 anni fa a Spoleto, nell'allestimento ideato dal regista Giorgio Bongiovanni. Una musica tutta novecentesca, piena di urti e dissonanze, per raccontare, anche con l'aiuto di un narratore in un palco, la tragedia di Gregorio, il giovane commesso viaggiatore, soggetto dell'orribile trasformazione. Un unico raggio di luce, la melodia suonata al violino dalla sorella, al di là della porta divisoria che lo separa dal resto del mondo e che dà anche il titolo allo spettacolo. Altrettanto ruvida, nella seconda parte, la musica del Castello del Duca Barbablù di Bartok, un dialogo serrato fra due attori su uno sfondo da romanzo gotico, con porte anche qui che si aprono a disvelare orrori. La regia di questo nuovo allestimento è firmata da Henning Brockhaus, uno dei grandi del teatro contemporaneo, uno spettacolo che vive dei lampi rosso sangue dei mantelli sul nero dello scenario, fino ad un lieto fine che tutto fa tranne che lasciare tranquilli. A guidare l'orchestra e anche il pubblico del Verdi in questa impegnativa doppia esplorazione, Marco Angius, una proposta sfidante e di livello assoluto che impegnerà il palcoscenico del Teatro Triestino fino al 23 giugno. Trieste, Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia. E sono attese 20.000 persone per il concerto di Sfera Ebbasta, rapper italiano, che quest'anno detiene il record del maggior numero di brani piazzati al primo posto nella top singoli e il maggior numero di settimane in prima posizione. Appuntamento allo stadio Teghi di Lignano alle 21, previsto per l'occasione il divieto di parcheggio davanti allo stadio fino alle 8 di domani, anche della strada laterale tra lo stadio e l'Acqua Splash, oltre al parcheggio tra l'area mercato e la palestra comunale. Resterà inoltre chiuso al traffico via della Vigna, il limite massimo di velocità di 30 km all'ora dovrà essere osservato in Viale Europa, tra Via San Giuliano e la rotonda d'ingresso, su entrambe le carreggiate. Il cartellone della rassegna di teatro, musica, cinema e danza in luoghi unici di Trieste a Prodi prosegue oggi con la passeggiata cinematografica intitolata Il mondo in una città, in cui si visiteranno i luoghi usati come sfondo in pellicole di spionaggio e intrighi internazionali. Appuntamento a Trieste alla Casa del Cinema alle 18. L'evento sarà condotto dallo studioso di cinema Gianluca Guerra, a cui abbiamo chiesto quali saranno i principali luoghi della visita. Visiteremo soprattutto il centro città, visiteremo quelle che sono state le location di un film molto famoso uscito nel 1952, un film hollywoodiano che si chiamava Corriere Diplomatico, che ha utilizzato Trieste come location, e si parla soprattutto della stazione di Trieste, che viene citata anche in, peraltro in 007 e in quello che è considerato il primo film sulla guerra fredda, Vagone letto per Trieste, seppur questo non sia stato girato in città. Poi proseguiremo verso il canale di Ponte Rosso, la piazza di Sant'Antonio, le rive, piazza Unità, e termineremo il nostro percorso sul colle di San Giusto, dove sono state girate molte sequenze di Corriere Diplomatico, alcune delle più spettacolari. Secondo lei qual è l'angolo più curioso che è stato utilizzato per set cinematografici a Trieste? Senz'altro il più curioso è anche una delle scene più spettacolari del film che abbiamo preso ad esempio per parlare di Trieste, città di spie, appunto Corriere Diplomatico, è una sequenza di inseguimento a piedi sulle scalinate del Teatro Romano. L'archivio del pittore friulano Arrigo Poz è stato donato al Dipartimento di Studi Umanistici del Patrimonio Culturale dell'Università di Udine, custodisce progetti, disegni, lettere e documenti di oltre 50 anni di attività. Secondo la volontà delle figlie Alessandra, Anna Maria e Donatella, l'archivio di Poz, noto in particolare per l'importante produzione nell'ambito dell'arte sacra, sarà a disposizione delle attività di ricerca e di didattica. Sarà inoltre possibile la consultazione dei materiali su prenotazione. L'archivio è stato affidato al Laboratorio Informatico per la Documentazione Storico-Artistica, LIDA, per essere valorizzato anche nelle attività di tirocinio organizzate da Martina Visentin, responsabile del laboratorio. Seconda giornata per Tolmezzo Via dei Libri, festival letterario in calendario fino a domani, che prevede tra i letteratori di oggi Concita De Gregorio con l'evento Un'ultima cosa, coro di donne che prendono la parola per l'ultima volta e dicono di sé senza lasciare diritto di replica al Cinema David alle 21. E adesso passiamo ad alcuni appuntamenti di oggi in regione. Go Games, i giochi di quartiere transfrontalieri che propongono dal tiro alla fune alla briscola, dai percorsi di abilità con l'acqua alla caccia al tesoro, invaderanno oggi il centro città di Gorizia con inizio alle 14.30 in piazza Vittoria, coinvolgendo i rioni di Nova Gorizia e Schönpeter-Vörtheuba, a fronte di oltre 300 partecipanti dai 16 anni fino agli 80, suddivisi in 13 squadre. La rassegna culturale evento d'estate include in cartellone il laboratorio di ceramica per giovanissime a Udine al Parco Martiri delle Foibe dalle 18. A seguire alle 20.30 si esibirà il quartetto Carlito Swing. La mostra Mostri Meravigliosi, con illustrazioni ispirate a folklore che lega Carso, grotte e personaggi leggendari, sarà inaugurata a Trieste al Museo della Speleologia in via Guido Reni alle 17.30. Profumi e colori dei legni e la conferenza dell'ebanista Luciano Molinari che si terrà al Castello di Colloredo di Monte Albano alle 17. La giornalista Marina Lalovic e il ricercatore Marco Siragusa dialogheranno su Una città che cambia, trasformazioni, prospettive, sfide, da Belgrado alla Serbia. A Trieste la libreria Lovat alle 18. Christophe Palomar presenterà il suo romanzo Bianca e la città, ambientato nel capoluogo giuliano, a Trieste la libreria Ubic in galleria Tergesteo alle 18. Angelo Floramo presenterà il suo libro Breve storia sentimentale dei Balcani a Romans di Sonzo a Leon d'Oro in via Latina alle 19. In occasione della chiusura della mostra Cosmos si terrà uno spettacolo di danza con una ventina di coppie in costume che balleranno su musiche della famiglia Strauss a Trieste al piazzale del Castello di Miramare alle 20. Per l'occasione la mostra e il castello saranno accessibili fino alle 23. La rassegna triestina Estate fuori centro prevede in cartellone l'iniziativa La scuola dei ripetenti, con testimonianze della maestra di scuola primaria Monica Scoppa e dell'educatore Matteo Verdiani in piazza Tre Rivi alle 16. A seguire lo spettacolo di circo contemporaneo Tom the Old Man alle 20 e in chiusura di serata il concerto dei Los Echecos alle 21. Per la musica, secondo appuntamento per la rassegna Estate Musica 2024 della Società dei Concerti di Trieste, che proporrà il concerto della pianista macedone Teodora Kapinskova al Teatro Verdi alle 20.45. La rassegna Concerti al Castello prevede oggi l'esibizione del pianista Paolo Francese su musiche di Scarlatti, Liszt, Scriabin a Gorizia, a Palazzo Lantieri alle 18. Il concerto The Songs I Love del pianista bellunese Mosè Andrić si terrà a Pordenone in largo San Giacomo alle 18.30. Terza edizione per la rassegna internazionale Fisarmonicisti Alpe Adria, con oltre 50 fisarmonicisti provenienti oltre che da Triveneto, da Carinza, Slovenia e Croazia, a Premariaco, al campo sportivo, alle 17.00. Il chitarrista americano Bob Log III sarà protagonista della serata musicale in programma a Trieste, al Teatro Miela, alle 21.30. Per l'11ª edizione della rassegna Sotto il cielo di San Giacomo, la calzolaia prodigiosa del drammaturgo spagnolo Federico García Lorca, in adattamento e regia di Francesco Facca, a Trieste, all'ex laboratorio via San Giacomo in Monte, alle 19. Il Cinebike, versione in due ruote del drive-in statunitense, che propone proiezioni cinematografiche all'aperto, oggi proietterà la linea di confine con l'impresa di Omar Di Felice, che partendo da Trieste e pedalando sulla linea di confine tra Italia, Slovenia, Austria, Svizzera e Francia, ha percorso oltre 1600 km in meno di 5 giorni. Appuntamento a Grado al Parco delle Rose a 21. Le rubriche della TGR domani su Radio Rai 1 alle 6.05. Andrà in onda Est-Ovest, dedicato ai paesi dell'ex Cortina di Ferro. Su queste frequenze invece alle 8.50 andrà in onda la tradizionale rubrica Vita nei Campi. Sentiamone un'anticipazione. Vita nei Campi, settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, non della domenica, alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura il cambio al vertice del CEVIQ, l'ente di certificazione vini e prodotti di qualità. A seguire, per la lettura dei corsivi di Licio Damiani, quello intitolato Laudata sia la spica del meriggio. Nella rubrica del bio, consigli e valutazioni sulle semine possibili dopo questo periodo di pioggia. E ancora, per il vino, valutazioni sulla durata della fermentazione del pigiato secondo la qualità delle uve e il vino che si vuole ottenere. Per i grandi alberi, dopo i castagni delle valli di Natisone, di scena le betulle dello stesso territorio, e per lo spazio della gastronomia, mele sotto forma di frittelle. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo e il proverbio friulano della settimana. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR, Friuli Venezia Giulia. Prima di chiudere un'informazione di servizio, a Trieste per questo fine settimana in programma restringimenti di carreggiata e chiusura per alcune ore del raccordo 13 per iniziative connesse alla sostituzione del sovrappasso autostradale di Sistiana. Dalle 14 sarà attivata la deviazione per lo scambio di carreggiata, chiudendo la direzione per Trieste del raccordo autostradale, portando entrambi i sensi di marcia nella carreggiata per Venezia, con il ripristino della fruibilità della corsia di emergenza. Lo scambio dovrà essere ultimato entro le 17, mantenendo disponibili fino a quell'ora sia l'uscita per Sistiana, per chi proviene da Venezia, sia l'immissione in direzione Trieste, per chi proviene da Sistiana. Alle 20 il raccordo verrà chiuso in direzione Venezia, nel tratto compreso tra Prosecco e Duino, e in direzione Trieste, in corrispondenza dello svincolo di Sistiana. Pertanto in direzione Venezia l'uscita obbligatoria sarà a ridosso dello svincolo di Prosecco, con deviazioni per il rientro all'Iserte. In direzione Trieste l'uscita obbligatoria sarà quella di Sistiana, con possibilità di reimmissione a Sistiana dopo il sovrappasso della nuova strada ANAS 56. I lavori sono previsti fino alle 6 di domani, domenica, quando il raccordo tornerà nuovamente percorribile. Ed è tutto per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Caterina Cabrelli. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Prossimo appuntamento con il GR oggi alle 14.30. A tutti l'augurio di un buon sabato. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.